Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Patata blu, carota viola, riso nero. Avremo una tavola Arlecchino, ma non è come probabilmente state pensando. Food Lab oggi vi racconta questa vecchia nuova innovazione. Potrebbe sembrare una leziosità moderna, contemporanea, quella di colorare, qualcosa di design un po' perverso, di colorare il cibo. La patata blu o la carota viola. Invece, è l'opposto. Il contrario, è un ritorno alla tradizione, come ci confermerà Rolando Manfredini, benvenuto. Grazie. Lei è responsabile della qualità per Coldiretti e insomma diamo a lei l'onere e l'onore di raccontarci come sta cambiando un po' la spesa, ma proprio il colore della spesa. Beh, diciamo che sta cambiando in senso molto positivo, perché effettivamente con queste proposte che vengono anche direttamente dagli agricoltori proprio, possiamo avere diversi colori a cui prima non eravamo abituati. Mi riferisco in particolar modo a colori che riguardano l'ortofrutta, ma anche altri tipi di coltivazioni come il mais e cose di questo genere. Quindi diciamo proprio una rappresentazione colorata di come è il cibo, e naturalmente questo è veramente attrattivo, perché anche la natura stessa si colora per essere attrattiva. Lei diceva il mais perché abbiamo ad esempio un mais bianco, un mais rosso quasi bordeaux. Abbiamo dei mais che effettivamente, tra l'altro, questi sono veramente antichi e provengono dalla forse anche migliaia di anni fa, che venivano coltivati per esempio nelle zone originarie del mais, come l'America Latina. Mi riferisco in particolar modo, per esempio, non so, al mais rosso che adesso viene coltivato in Trentino e che ha questa colorazione del chicco piuttosto rossa, che indica per esempio un alto contenuto di ferro, e che in un qualche modo dà una farina che ha un colore giallo dorato. Il gusto è uguale? Beh, il gusto non è uguale, perché è un po' più intenso. È un po' più forte. E cosa si utilizza, ad esempio, per fare la polenta? Beh, certamente si fa, in questo caso si fa proprio la tipica polenta di Storo, che è una delle località del Trentino che vengono in un qualche modo richiamate quando si pensa a quella bellissima regione. Come dicevamo prima, c'è stato un po' un ritorno alla tradizione, perché cos'è avvenuto? Cioè, alcuni agricoltori hanno voluto in qualche modo, non so, conservare la biodiversità di quelli che erano dei grani o dei vegetali antichi, e li hanno riscoperti. Come è funzionato? Beh, diciamo che si sono conservati o li hanno conservati gli agricoltori stessi con delle produzioni magari familiari, quindi addirittura non si può neanche parlare di produzioni di nicchia, perché è veramente delle produzioni assolutamente minime, piccole. Si sono tramandati proprio, questa è una delle caratteristiche che ha portato comunque a mantenere la biodiversità, e a recuperare delle chicche che poi dal punto di vista scientifico si sono dimostrate veramente molto, molto, molto interessanti. Ma perché erano scomparse? Erano scomparse, per esempio, facciamo l'esempio del mais, erano scomparse perché naturalmente gli ibridi di mais che sono stati ottenuti erano estremamente più produttivi. Hanno una resa minore rispetto, diciamo, a quelli più diffusi. Hanno sicuramente, per esempio nel mais, hanno sicuramente una resa minore. Poi naturalmente c'è stata una parte, diciamo, della nostra storia dell'agricoltura, una parte che per certi aspetti ha portato proprio in funzione della produttività e della costanza di produzione, eccetera, eccetera, a una selezione, diciamo, di quello che produceva magari di più o produceva quelle determinate caratteristiche. Voi pensate che per esempio la carota viola, tanto per intendersi, noi pensiamo, quando pensiamo alla carota, ci viene in mente immediatamente anche visivamente il colore, diciamo, arancio della carota. La carota viola è stata selezionata sulla base di un seme antico e contiene 28 volte gli antociani che contiene la carota normale, quella arancione. Gli antociani sono delle sostanze antiossidanti, ecco. Gli antociani sono dei potentissimi antiossidanti che naturalmente hanno un effetto benefico riconosciuto proprio dalla scienza efficienza sulla salute, oltre che essere degli antiossidanti, anche proprio per contrastare diciamo l'invecchiamento, ma anche perché conferiscono al sistema cardiocircolatorio nel suo insieme, diciamo lo preservano da per esempio il deposito dei grassi e cose di questo genere. Senta, ma quindi, se questa informazione gira, l'arancione scompare, no? Cioè, ci sarebbe abbastanza produzione. Quell'arancione hanno i carotenoidi, però. Sì, è vero anche questo. Cioè, bisogna mantenere, secondo me, entrambe le cose. Una e una, certamente. Questo si può fare. La carota viola, questo si può certamente fare, in funzione appunto di avere a disposizione una biodiversità anche di produzione agricola, che è poi la forza della produzione agricola. Sì. Immaginiamo anche quanto sia interessante poi a livello gastronomico di ricetta, appunto fare, che ne so, un'insalata sia arancione che viola, piatti vengono molto meglio senz'altro. Certo. Sì. Anche dal punto di vista, chiamiamolo così, estetico, la colorazione è un'attrattiva non indifferente. Ecco, adesso vado a farmi una caprese con il pomodoro giallo, e non sto scherzando perché esiste, e lei lo confermerà, Manfredini, è molto ricco giallo. Anche quello di beta carotene, un po' la stessa sostanza che abbiamo incontrato nelle carote arancioni. Assolutamente sì, tra l'altro è anche piuttosto dolce, quindi e poi è proprio anche bello da vedere. Il beta carotene naturalmente è un antiossidante potentissimo dal punto di vista naturale. Tenete conto, ecco, proprio ricordiamo che il pomodoro era all'inizio d'oro, un color giallo, quindi vedi. Voglio dire, noi adesso pensiamo al pomodoro che è rosso, ma pomodoro significa pomo giallo, no? Quindi il fatto di ritornare al colore giallo con questo pomodorino, si ritorna un po' alle origini, una roba. Effettivamente allora erano utilizzati addirittura per i loro frutti gialli che avevano come pianta per abbellire i giardini e cose di questo genere. Poi successivamente si è scoperto le caratteristiche nutritive straordinarie che avevano. Vabbè, grazie Manfredini per questo viaggio così nel carrello cromatico della spesa, un po' diverso dal solito. Grazie Manfredini. Sì. Arrivederci. Grazie a voi. E anche per oggi è tutto, ci sentiamo prestissimo con una nuova puntata di Food Lab.